tornare al suo petto, alle tue radici. Quando la tua gente se ne sarà andata forse, allora il sogno cattivo si fermerà. Il mondo della foresta, di Ursula Cobler Le Guin, riduzione in quattro scene, il campo, la strage, la foresta, la rivoluzione. Dal mondo della foresta di Ursula Le Guin. Capitolo primo. Due scampoli del giorno precedente erano nei pensieri del capitano Davidson al suo risveglio, ed egli rimase ad osservarli nell'oscurità per un lungo periodo di tempo, senza alzarsi dal letto. Uno era positivo, il nuovo carico di donne era arrivato, incredibile ma vero. Erano laggiù, a Centralville, a 27 anni luce dalla Terra, con la navigazione ultraluce, e a 4 ore di elicottero da Campo Smith. La seconda infornata di femmine da accoppiamento per New Tahiti Colony. Tutte sane e pulite, 212 capi di razza umana di prima scelta, o che potevano passare per prima scelta ad ogni buon conto. L'altro negativo, il rapporto dall'isola di scarica, raccolti scarsi, massicce erosioni, smottamento totale. La fila di 212 figurette poppute svanì dalla mente di Davidson, scacciata dall'immagine della pioggia, che scendeva sulla terra disossata, la rimescolava sino a trasformarla in fango, stemperava quel fango, sino a ridurlo a una brodaglia rossiccia che scivolava lungo le rocce e precipitava in un mare spezzato dai piovaschi. L'erosione era cominciata ancora prima che egli lasciasse l'isola di scarica per andare a comandare Campo Smith. E poiché era dotato di una memoria visiva eccezionale, egli poteva adesso ricordare la scena in modo sin troppo chiaro. Pareva che quel cervellone di Kiss fosse nel giusto e che occorresse lasciare in piedi un mucchio di alberi nei punti dove si intendeva innalzare le case coloniche. Ma non poteva ancora capire perché in un campo di soia si dovrebbero sprecare un mucchio di spazi in alberi se la terra fosse stata condotta in modo veramente scientifico. Nell'Ohio non era affatto così. Se volevi mais, piantavi mais, e non sprecavi spazio in alberi o altro. Ma il fatto era che la Terra era un pianeta addomesticato, mentre Nuova Tahiti non lo era. Ed egli era qui per questo, per addomesticarlo. Se l'isola di scarica che adesso è ridotta a nient'altro che rocce e fossili, facciamoci un segno sopra, pensiamo. Ricominciamo da un'altra isola e la prossima volta faremo meglio. Non potete tenerci fermi, siamo uomini, pensava. Imparerai presto cosa significhino queste parole, maledetto pianeta, pensò Davidson, e si concesse un sorriso nell'oscurità della baracca, poiché gli piacevano le sfide. E pensando agli uomini, il suo pensiero corse alle donne. E nuovamente la fila di minuscole figurette si rimise in moto nel suo cervello, figurette sorridenti e ancheggianti. Ben, ruggì mettendosi a sedere sul letto e posando i piedi nudi sul terreno nudo. Acqua calda e subito, svelto, scattare. Il ruggito lo destò completamente con piena sua soddisfazione. Si stiracchiò e si grattò il torace e infilò i calzoncini e uscì a grandi falcate dalla capanna e fece anche qualche passo nella spianata illuminata dal sole. Il tutto in un'unica serie di movimenti armoniosi. Era un uomo alto, robusto, dai muscoli ben tesi e amava adoperare il suo corpo perfettamente allenato. Ben, il suo cricchi, aveva già preparato l'acqua sul fuoco fumante come sempre e se ne stava accovacciato a terra a fissare il vuoto come sempre. I cricchi non dormivano mai, si limitavano a starsene accovacciati a fissare nel vuoto. Colazione, svelto, scattare, gridò Davidson, prendendo il rasoio dall'asse di legno, non piallato, dove il cricchi l'aveva posato pronto per lui insieme con un asciugamano e uno specchio inclinato. C'era un mucchio di cose da fare oggi, poiché aveva deciso, in quell'ultimo minuto prima di alzarsi, di fare un volo fino alla centrale per dare personalmente un'occhiata alle nuove donne. Non sarebbero durate molto a lungo, 212 tra più di 2000 maschi. E come la prima infornata, probabilmente erano in maggioranza spose coloniali e solo 20 o 30 erano giunte come personale ricreativo. Ma queste erano certamente delle brave ragazze vogliose e sportive ed egli intendeva essere il primo della fila per almeno una di loro questa volta. Sogghignò con la sinistra, mantenendo immobile invece la guancia destra sotto il ronzio del rasoio. Il vecchio cricchi se la prendeva assai calma e ci metteva un'ora a portargli la colazione dalla cucina. Svelto, scattare, gli gridò Davidson. E Ben spostò a un ritmo di camminata il suo bighellonaggio disossato. Ben era alto circa un metro e il pelame della sua schiena era più bianco che verde. Era vecchio e tonto anche per un cricchi, ma Davidson sapeva come trattarlo. Un mucchio di persone non sapevano trattare i cricchi, nemmeno una cicca, ma Davidson non aveva mai avuto difficoltà con loro. Era capace di domare qualsiasi cricchi se ne valeva la pena. Ma non ne valeva la pena. Porta qui un numero sufficiente di persone umane, costruisce macchine e robot, metti fattorie e città e nessuno avrà più bisogno dei cricchi. Togliermeli dai piedi, capitano. Semplicemente lasciarli andare, non riesco a ottenere abbastanza da loro, alla segheria, per compensare quello che mangiano, per compensare il maledetto grattacapo che sono. Non lavorano e basta. Come non lavorano? Se sai farli lavorare, hanno costruito il campo. Il volto di Okawai era arcigno. Beh, lei deve avere il tocco magico, voi tutti, credo io. Io non ce l'ho. In quel corso di storia applicata che ho fatto nell'addestramento per oltrespazio, diceva che lo schiavismo non ha mai funzionato, era antieconomico. Giusto? Ma qui non si tratta di schiavismo, ragazzo mio. Quando allevi mucche lo chiami schiavismo, no? No, e il sistema funziona. Impassibile il caposquadra annuì, ma disse: sono troppo piccoli, ho cercato di affamare quelli più intrattabili, ma si limitano a starsene immobili e a lasciarsi morire di fame. Sono piccoli, certo, rispose il capitano, ma non devi lasciarti fregare da loro. Sono insensibili, hanno una resistenza terribile e non provano il dolore come gli uomini. Questa è la parte che tu dimentichi. Tu pensi che colpirne una sia magari come colpire un bambino, più o meno. Credimi, è invece come colpire un robot, per quello che sentono. Senti, tu ti sei mai fatto qualcuna delle femmine? E sai che ti danno l'impressione di non provare nulla, né piacere né dolore. Si limitano a starsene lì come materassi qualunque cosa tu faccia. E tutti i cricchi, credimi, sono uguali. Probabilmente hanno i nervi più primitivi di quelli dell'uomo, come i pesci. Senti, te ne racconto una da far rizzare i capelli a questo proposito. Quando ero alla centrale, prima di venire qui, uno dei maschi domestici mi ha attaccato una volta. Sì, lo so, ti dicono che non lottano mai, ma quello è impazzito. Ha perso le rotelle e per fortuna non era armato, altrimenti mi avrebbe ucciso. Sono stato quasi costretto ad ucciderlo io, perché si decidesse almeno a fermarsi. E continuava, credimi, a saltarmi addosso. Era incredibile la battitura che si prendeva, senza neppure accorgersene. Come un insetto. Tocca a te smettere di calpestarlo, perché lui non si è accorto che l'hai già sfracellato. Dai un'occhiata. Davidson chinò il capo per mostrare una cicatrice ancora rigonfia dietro un orecchio, in mezzo ai capelli tagliati a spazzola. Quel colpo, accidenti, per poco non mi ha spaccato il cranio. E mi ha colpito dopo che gli avevo già spaccato il braccio e gli avevo ridotto la faccia ad una marmellata di mirtille. Continuava a saltarmi addosso, capito? La faccenda è che i cricchi sono stupidi, sono traditori e non sentono il dolore. Bisogna essere duri con loro e continuare ad esserlo. Ma non ne vale la fatica, capitano. Quei piccoli, maledetti bastardi cocciuti non fanno la lotta, non fanno il lavoro, non fanno nulla di nulla. L'unica cosa che fanno è che mi fanno venire l'angoscia. Capitano, capì? Che costui non avrebbe mai battuto un cricchi a causa del fatto che erano tanto più piccoli di lui. Ciò era chiaro nella mente, e adesso era chiaro anche a Davidson, che accettò subito la situazione e sapeva da che lato prendere i suoi uomini. Allora Davidson disse: senti, ok, prova questo. Prendi il capo del malcontento e di loro che gli farei un'iniezione di allucinogeno. Mescalina, acido, qualsiasi cosa, non ne distinguono una dall'altra, ma ne hanno una gran paura. Non sforzare troppo la cosa e vedrai che funzionerà, te lo garantisco. E perché hanno paura degli allucinogeni? Chiese il capomastro incuriosito. Come potrei saperlo? Perché le donne hanno paura dei topi? Non cercare il buonsenso nelle donne o nei cricchi, ok? Anzi, a proposito, stamattina vado alla centrale, devo mettere il dito su una ragazza di Colonia per te? Un gruppo di cricchi passò davanti a loro, portando una lunga trave di 3 metri per 30 centimetri, destinato alla sala ricreativa che stava sorgendo accanto al fiume. Le figurine lente e curve portavano il grosso trave come un gruppo di formiche che trasportasse un bruco morto, ostile e inetto. Oknahawi li osservò e poi disse: capitano, mi fanno venire la pelle d'oca. La frase era strana sulle labbra di un tipo robusto e tranquillo. Beh, sono d'accordo con te, a dire il vero. Non ne valgono la fatica o il rischio. Se quello stronzo di Libov non fosse sempre tra i piedi, il colonnello non fosse così maniaco nel seguire il regolamento, io penso che potremmo limitarci a ripulire le aree in cui si insiedono, invece di questo tram tram del lavoro volontario. Tanto finiranno per essere cancellati prima o poi. E dunque meglio che lo sia prima. Le razze primitive devono sempre cedere il passo alle razze civili o venire assimilate. Ma quanto è vero Dio, non possiamo assimilare un mucchio di scimmie verdi. E come dici tu, hanno giusto quel tanto di intelligenza che basta a non renderle mai degne sino in fondo di fiducia. Come quelle grosse scimmie che vivevano una volta in Africa, come diavolo si chiamavano? Gorilla? Sì, proprio quelle. Andrà assai meglio qui da noi quando non ci saranno più cricchi, esattamente come adesso va meglio senza gorilla in Africa. Ci bloccano la strada, ma il colonnello Din Dun Dan ci dice di usare manovali cricchi e noi usiamo i cricchi per ora. Giusto? Ci vediamo questa sera, ok? D'accordo, capitano. Davidson andò a prendere l'elicottero al quartier generale di Campo Smith. Ritornando in volo al campo, Davidson attraversò lo stretto di Smith allo stesso livello del sole posato in cima ad un vastissimo letto dorato di foschia sovrastante il mare. Cantava, mentre pilotava l'elicottero senza alcuna preoccupazione. La terra di Smith giunse in vista, velata dai vapori e c'era del fumo al di sopra del campo, una chiazza nerastra, come se dell'olio lubrificante fosse finito nell'inceneritore delle immondizie. E in mezzo a quel fumo non si potevano neppure distinguere degli edifici. Solamente quando cominciò a scendere sul campo d'atterraggio egli scorse il jet segnato dal fuoco, gli elicotteri fracassati, l'hangar incendiato. Per riprendere quota l'elicottero e ritornò in volo sul campo ad un'altitudine talmente scarsa da rischiare di colpire l'alto cono dell'inceneritore, che era l'unica cosa che rimaneva ancora in piedi. Il tutto, il resto, se ne era andato. Segheria, fornace, deposito della legna, quartier generale, baracche, caserma, recinto dei cricchi, tutto. Gusci vuoti e rottami anneriti ancora fumanti. Ma non si era trattato di un incendio della foresta. La foresta era ancora in piedi e verdeggiava intatta a fianco con le rovine. Davidson virò di nuovo sul campo d'atterraggio, toccò terra, accese le luci per cercare la moto, ma anch'essa era un rottame annerito in mezzo alle rovine puzzolenti fumanti dell'hangar e delle macchine. Si mise a correre lungo il sentiero, quello che scendeva verso l'accampamento. Mentre passava davanti a quella che era stata la baracca della radio, riacquistò di improvviso il buon senso. Senza esitare nemmeno per una falcata, cambiò direzione. Si allontanò dal sentiero battuto, passò dietro la baracca sventrata e laggiù si fermò, tese le orecchie. Stava rimettendosi in piedi quando udì le voci, non voci umane, acute, leggere, bla bla bla, alieni. Chino sulle mani e sulle ginocchia, dietro il tetto di plastica della baracca, che ora giaceva sul terreno, deformato dal calore fino ad assumere l'aspetto di un'ala di pipistrello, Davidson si irrigidì e rimase in ascolto. Quattro crichì si avvicinarono a pochi passi da lui, sul sentiero. Erano crichì selvatici, completamente nudi, ad eccezione di un'ampia cintura di cuoio che recava coltelli e piccoli tascapani. Nessuno aveva calzoncini e il collare di cuoio che venivano assegnati ai crichì addomesticati. Probabilmente i volontari chiusi nel recinto erano stati ridotti in cenere insieme con gli umani. Si fermarono poco più avanti del suo nascondiglio, continuando a parlarsi col loro lento bla bla bla. E Davidson trattenne il respiro. Non voleva farsi scorgere. Chissà che diavolo ci facevano laggiù dei crichì. Non potevano essere altro che spie o esploratori del nemico. Uno dei crichì indicò in direzione sud mentre parlava e si voltò, così che Davidson poté vederlo in faccia e riconoscerlo. Tutti i crichì erano uguali fra loro, ma questo era differente. Davidson aveva vergato la propria firma su tutta quella faccia, meno di un anno prima. Era il crichì che era impazzito e lo aveva salito giù alla centrale, il crichì omicidia, il beniamino di Lyubov. Ci faceva lì al campo. La mente di Davidson guizzò, ticchettò. Con le reazioni scattanti come sempre si alzò in piedi, improvviso, alto, tranquillo, arma alla mano. Voi crichì, fermi, restate immobili, giù le braccia, niente mosse. La sua voce crepitava come una sferza. Le quattro piccole creature non si mossero. Quello con la faccia rincalcata lo fissò da dietro il cumulo nero di macerie e i suoi occhi, larghi e vacui, erano privi di ogni luce. Rispondete adesso. Questo fuoco, chi l'ha fatto? Nessuna risposta. Rispondete, svelti, scattare. Niente risposta. E io brucio prima di lui, poi lui, capito? Questo fuoco, chi l'ha fatto? Noi abbiamo bruciato il campo, capitano Davidson, disse quello venuto dalla centrale con una voce strana e morbida che a Davidson ricordò quella di qualche umano. Gli umani, disse, sono tutti morti. Voi l'avete bruciato. Cosa intendi dire? Chissà perché non gli riusciva di ricordare il nome dello sfregiato. C'erano 200 uomini qui, 90 del mio popolo. 900 del mio popolo sono usciti dalla foresta. Prima abbiamo ucciso gli umani, quelli del luogo della foresta dove tagliavano gli alberi. Poi abbiamo ucciso quelli che erano in questo luogo. Mentre le case bruciavano, pensavo che fosse stato ucciso. Sono lieto di vederla, capitano Tevis. Erano parole assolutamente folli e naturalmente si trattava di menzogne. Non potevano averli uccisi tutti. Ok, Birno, Van Stirn e tutto il resto, 200 uomini. Almeno qualcuno sarebbe riuscito a scappare. I cricchi non avevano altro che archi e frecce e comunque i cricchi non potevano averlo fatto. I cricchi non lottavano, non uccidevano, non facevano la guerra. Erano non aggressivi, intraspecie, ossia stavano fermi a fare da bersaglio. Non restituivano il colpo. Chiaro come il sole, non potevano avere massacrato 200 uomini con un colpo solo. Il cricchì era pazzo. Il silenzio, il debole puzzo di bruciato nella luminosità lunga e tiepida del crepuscolo, le facce color verde pallido dagli occhi immobili che lo guardavano, non ammontavano a nulla, solo a un sogno pazzo e cattivo, a un incubo. Chi lo ha fatto per voi? 900 del mio popolo, disse lo stregiato, con quella sua voce maledettamente simile ad una voce umana. No, non loro. Chi altri? Chi vi ha fatto agire? Chi vi ha detto cosa fare? Mia moglie, rispose. Mia moglie mi ha detto. Davison scorse l'attenzione rivelatrice nella posizione della creatura e tuttavia il cricchì gli balzò addosso con tale leggerezza, in modo talmente obliquo, che la pistola mancò il colpo, andando a bruciare un braccio o una spalla invece di colpire fra gli occhi. Poi il cricchì fu su di lui. Era metà della sua taglia e del suo peso, eppure gli fece perdere l'equilibrio con l'impeto dell'attacco, perché Davidson si era affidato alla presenza della pistola e non si aspettava l'aggressione. Le braccia del cricchì erano sottili, dure, coperte di pelliccia, entro la stretta delle sue mani, e mentre Davidson lottava per sciogliersi, il cricchì cantava. Davidson si trovò sulla schiena, premuto a terra, disarmato. Quattro musi verdi posavano lo sguardo su di lui. Lo sfregiato cantava ancora, un bla bla sfiatato, ma con un motivetto musicale. Gli altri tre ascoltavano e mostravano in un ghigno i denti bianchi. Davidson non aveva mai visto un cricchi sorridere. Non aveva mai fissato lo sguardo in una faccia di cricchi dal di sotto, sempre dal di sopra, dall'alto in basso, dalla cima. Non cercò di liberarsi, perché per il momento sarebbe stata fatica vana. Per piccoli che fossero, lo superavano di numero e lo sfregiato aveva la sua pistola. Doveva attendere. Ma provava un malessere indefinito, una nausea che faceva torcere e sussultare il suo corpo contro la sua stessa volontà. Le piccole mani lo tenevano al suolo senza sforzo apparente. Le piccole facce verdi dondolavano sopra di lui e sorridevano. Lo sfregiato terminò di cantare, si inginocchiò sul petto di Davidson, con in una mano un coltello, nell'altra la sua pistola. Tu non puoi cantare, capitano Davidson, vero? Beh, allora forse potrei correre al tuo elicottero e volare via e dire al colonnello alla centrale che questo posto è stato bruciato e che gli umani sono stati tutti uccisi. Lo lasciarono libero. Egli si alzò con cautela, ancora stordito per la caduta che lo sfregiato gli aveva fatto fare. Ora i cricchi si tenevano ben lontano da lui, sapendo che il suo allungo era il doppio del loro. Ma lo sfregiato non era il solo che avesse un'arma, c'era una seconda pistola puntata sulla sua pancia. E quello che impugnava la pistola era Ben, il suo cricchi Ben, quel piccolo bastardo rognoso con l'aria stupida come sempre, ma con in mano una pistola. Quello che impugnava la pistola e la penna, il suo cricchiben, il suo schiavo, quel piccolo bastardo rognoso con l'aria stupida, come sempre, ma con in mano una pistola. Disse la voce pacata dietro di lui. Aveva parlato lo sfregiato. Selver. Ecco come si chiamava. Selver giunse a un sentiero accanto all'acqua, camminando lentamente e spesso incespicando nelle radici di salice. Scorse un vecchio, intento a sognare, e si fermò. Il vecchio lo fissò fra le lunghe foglie dei salici e lo vide nei suoi sogni. Posso venire nella tua loggia, Lord Sognatore? Vengo da assai lontano. Il vecchio continuò a rimanere seduto, senza muoversi. Dopo un poco, Selver si accoccolò sui calcagni, al lato del sentiero, accanto al torrente. La sua testa si chinò, poiché egli era esausto e doveva dormire. Camminava da 5 giorni. Appartieni al tempo del sogno o a quello del mondo? Gli chiese infine il vecchio. Al tempo del mondo. Vieni con me allora. Il vecchio si alzò prestamente e accompagnò Selver lungo il sentiero tortuoso che portava dal boschetto di salici alle regioni più asciutte, più buie, della quercia e del biancospino. Ti avevo scambiato per un dio, disse, mentre lo precedeva di un passo, e mi pareva di averti già visto, forse in sogno. Non certamente nel tempo del mondo. Vengo da Sornol. Non sono mai stato qui prima d'ora. Questa città è Cadast. Io sono Coromina, dei Biancospini. Selver è il mio nome, del Frassi. Ci sono persone del frassino fra di noi, sia uomini che donne, e anche dei tuoi clan di matrimonio, Betulla e Agrifoglio. Non abbiamo donne del Melo, ma tu non sei venuto qui per una moglie, vero? Mia moglie è morta, disse Sansa. Ero Selveltel quando abitavo a Ezeret, in Sornul. La mia città fu distrutta dagli umani quando essi tagliarono gli alberi di quella regione. Io fui uno di coloro che furono costretti a servirli, insieme con la mia moglie Tel. Ella venne violentata da uno di loro e morì. Io attaccai l'umano che l'aveva ucciso. Egli mi avrebbe ucciso a quel punto, ma un altro di loro mi salvò e mi liberò. Io lasciai Sornor, dove adesso nessuna città è al sicuro dagli umani, e giunsi qui all'isola del nord e andai a vivere sulla costa di Kelma Deva, nei boschi rossi. Infine, vi giunsero gli umani e cominciarono a tagliare il mondo. Distrussero una città laggiù, Penle. Catturarono un centinaio di uomini e donne e li costrinsero a servirli e a vivere nei recinti. Io non venni preso. Io andai con gli altri che erano scappati da Penle, nelle paludi a nord di Kelmedaira. A volte, la notte, mi recavo tra gli uomini, chiusi nei recinti degli umani. Essi mi dissero che c'era quello là, quello che avevo cercato di uccidere. All'inizio pensai di provarci di nuovo, oppure di liberare la gente chiusa nei recinti. Ma sempre vedevo cadere gli alberi e il mondo aprirsi sotto le lame e venire abbandonato a marcire. Gli uomini sarebbero potuti scappare, ma le donne erano chiuse in modo più sicuro e non avrebbero potuto farlo, e cominciarono a morire. Io parlai con le persone che si nascondevano nella palude. Eravamo tutti molto spaventati e molto adirati, e non avevamo modo di dar la libertà alla nostra paura e alla nostra collera. Così alla fine, dopo lunghi discorsi, lungo sognare, e dopo aver fatto un piano, uscimmo alla luce del giorno e uccidemmo gli umani di Kelmedeva con frecce e lance da caccia, e bruciammo le loro città e le loro macchine. Non lasciammo nulla, ma quell'umano si era allontanato, ritornò indietro da solo. Io cantai su di lui e lo lasciai andare. Cos'è la tua ferita? Chiese Thorben. Quell'umano mi ha colpito con il loro tipo di armi, ma io l'ho cantato a terra e l'ho lasciato andare. Da solo hai messo a terra un gigante, chiese Thorben con un sorriso feroce, augurandosi di poter credere. Non era solo. Non ero solo neanche io. Ero con 3 cacciatori e avevo in mano la pistola del gigante. Questa. Torber si ritrasse istintivamente dall'oggetto. Per un certo tempo nessuno di loro parlò. Infine, Corromena disse: ciò che tu ci racconti è molto nero e la strada scende sempre più in basso. Sei un sognatore della tua loggia? Lo ero, non esiste più una loggia di Eset. Sono tutte una. Parliamo l'antica lingua insieme. Tra i salici di Asta, tu mi hai parlato la prima volta, chiamandomi Lord Sognatore, e io lo sono. Tu sogni, Selver? Raramente oggi, rispose Selver, obbediente al catechismo, e chinò la faccia febbricitante e segnata di cicatrici. Da sveglio? Da sveglio. E sogni bene? Non bene. E tieni il sogno fra le tue mani? Sì. Lo intessi e gli dai forma, lo dirigi e lo segui, lo inizi e lo termini a volontà? A volte, non sempre. E puoi percorrere la strada presa dal tuo sogno? A volte. A volte ho timore di farla. E chi non l'ha? Per te non va ancora del tutto male, Selver? No, va del tutto bene, disse Selver. Non resta nulla di buono. E cominciò a giocare. Sdraiati. No, non sto delirando. Questi sono fatti veri e veri sogni. C'erano 200 uomini a Kel Neva e sono morti. Li abbiamo uccisi noi. Li abbiamo uccisi come se non fossero uomini. Essi non si rivolteranno e non faranno lo stesso. Hanno ucciso i nostri. Uno alla volta, ma adesso ci uccideranno come ci uccidono gli alberi, a cento e cento ancora. Stai calmo, disse Torber. Queste cose succedono nel sogno della febbre, Selver. Non succedono nel mondo. Il mondo è sempre nuovo, disse Corromena. Per vecchie che siano le sue radici, Selver. Come stanno le cose allora riguardo a queste creature? Hanno l'aspetto di uomini e parlano come uomini, non sono uomini. Non lo so. Gli uomini non si uccidono tra loro, se non nella pazzia. C'è qualche bestia che uccide individui della stessa specie. Solo gli insetti. Questi umani si uccidono con la leggerezza con cui noi uccidiamo i serpenti. Colui che ha insegnato a me mi ha detto che si uccidono tra loro, in dispute e anche in gruppi, come formiche che lottino. Io questo non l'ho visto, ma so che non risparmiano colui che chieda la vita. Non esitano a colpire un collo chino. L'ho visto io. In loro. In loro c'è il desiderio di uccidere. E dunque mi è apparso giusto metterli a morte. nessuna canzone venne cantata quella notte. Ci furono solamente grida e silenzi. Quando le navi volanti bruciarono, Selve esultò e le lacrime gli spuntarono agli occhi, ma nessuna parola alla bocca. Distolse lo sguardo in silenzio e il lanciafiamme era pesante nelle sue mani e si accinse a guidare nuovamente il gruppo entro la città. Ciascun gruppo di persone dall'ovest e dal nord era guidato da un ex schiavo come lui, uno che avesse servito gli umani alla centrale e conoscesse gli edifici e le vie della città. Persone che erano venute per l'attacco quella notte non avevano mai visto la città degli umani. Molte di loro non avevano mai visto un umano. Erano venute perché seguivano Selve, perché erano spinte dal sogno cattivo e solamente Selve poteva insegnare loro a padroneggiarlo. Erano centinaia e centinaia, uomini e donne. Avevano atteso in profondo silenzio nella piovosa oscurità tutta intorno al perimetro della città, mentre gli ex schiavi, due o tre alla volta, facevano quelle cose che a loro giudizio occorrevano fare per primi. Spaccarono la conduttura dell'acqua, tagliarono i fili che portavano la luce alla casa del generatore, fecero irruzione nell'arsenale e lo saccheggiarono. Morti, quelle delle guardie, erano avvenute in silenzio, eseguite mediante armi da caccia, cappio, coltello, freccia, molto rapidamente nel buio. La dinamite, rubata tempo prima nella notte al campo dei boscaioli, 10 miglia più a sud, venne messa in opera nell'arsenale, nella cantina dell'edificio del quartier generale, mentre i fuochi vennero appiccati in altri luoghi. La maggior parte del rumore di tuono e di alberi caduti della fuceria veniva dagli umani, che si difendevano poiché solamente gli ex schiavi avevano preso le armi dall'arsenale e le avevano usate. Tutti gli altri rimasero con le loro lance, i coltelli e gli archi. Era stata la dinamite, collocata e accesa a Reswan ed altri che avevano lavorato come schiave nei campi dei tagliaboschi a fare il rumore che aveva conquistato ogni altro rumore, a fare scoppiare le pareti del quartier generale e a distruggere gli hangar e le navi. Circa 1700 umani nella città quella notte e circa 500 di essi erano femmine. Si diceva che tutte le femmine umane fossero laggiù in quel momento e questo, si diceva, era il motivo che aveva spinto all'azione Selzer e gli altri, anche se non si erano ancora raccolte tutte le persone che desideravano partecipare all'attacco. Uomini compreso fra 4.000 e 5.000 era giunto attraverso le foreste all'incontro a Eddentor e da lì alla città a quella notte. I fuochi bruciavano alto e l'odore dell'incendio e del macello era cattivo. Selver aveva la bocca secca e la gola dolorante e perciò non poteva parlare e avrebbe desiderato bere dell'acqua. Mentre guidava il suo gruppo lungo il sentiero centrale della città, un umano giunse di corsa incontro a loro, stagliandosi gigantesco sullo sfondo del buio e il bagliore dell'aria satura di fumo. Selver sollevò il lanciafiamme e premette la lingua dell'arma, proprio mentre l'umano scivolava nel fango e cadeva annaspando sulle ginocchia. Nessun sibilante getto di fiamma corse fuori dalla macchina. Si era tutta consumata nel bruciare le navi aeree che erano chiuse negli hangar. Selver lasciò cadere la macchina pesante. L'umano non era armato ed era maschio. Selver cercò di dire: lasciatelo fuggire. Ma la sua voce era debole e due uomini, cacciatori dei boschi di Abtam, erano già corsi davanti a lui mentre parlava, brandendo i lunghi coltelli. Le grosse nude mani cercarono di afferrarsi all'aria, poi ricaddero immobili. Il grosso corpo giacque in un mucchio informe sul sentiero. Altri che giacevano morti, laggiù in quello che era stato il centro della città. Non c'erano più tanti rumori, ad eccezione di quello dei fuochi. Selver aprì le labbra e lanciò con voce roca il richiamo del ritorno a casa, che pone fine alla caccia. Coloro che erano con lui lo raccolsero e ripeterono più chiaramente e più forte, quasi in falsetto, il grido. E questo si prolungò. Altre voci risposero, vicine e lontane. Riecheggiarono nella foschia. E l'odore e l'oscurità della notte interrotta dalle fiamme. Invece di condurre subito fuori dalla città il suo gruppo, egli segnalò ai compagni di andare avanti da soli e si allontanò lentamente sul terreno fangoso. Giorni e non rimaneva fermo a sognare da un tempo ancora più lungo. Non sapeva esattamente da quanto. Aveva agito, parlato, viaggiato, fatto piani notte e giorno, sin da quando aveva lasciato Rother e i suoi seguaci venuti da Calvest. Era andato da una città ad un'altra, parlando al popolo della foresta, annunziando loro la cosa nuova, svegliandoli dal sogno e portandoli nel mondo, predisponendo tutto in modo che le cose avvenissero fatte quella notte, parlando sempre e ascoltando gli altri parlare, mai in silenzio e mai soli. Essi l'avevano ascoltata, l'avevano sentita ripetere ed erano giunti fino a lui per seguirlo e per seguire la nuova via. nelle loro mani il fuoco di cui avevano paura. Avevano raccolto il dominio sul sogno cattivo. E avevano raccolto e liberato sul nemico la morte che essi temevano. Tutto era stato fatto così come, secondo le sue parole, doveva essere fatto. Tutto si era svolto così come egli aveva detto che doveva svolgersi. Le logge e molte abitazioni degli umani erano state bruciate. Le loro navi volanti erano state bruciate e rotte. Le armi rubate e distrutte. Le loro femmine erano morte. I fuochi si stavano spegnendo. La notte diventava assai scura, guastata dal fumo. Selver non riusciva quasi a vedere. Alzò gli occhi verso l'est, chiedendosi se l'alba fosse prossima. Inginocchiato laggiù nel fango tra i morti, egli pensò: questo è ora il sogno cattivo. Io pensavo di guidarlo, ma è stato lui forse a guidare me. abbiamo trasmesso Il mondo della foresta di Ursula Cobler Le Guin. Sono come loro, un uomo come loro, come te. No, tu sei diverso. Io sono come loro e così lo sei tu, ascolta. Salve, non devi continuare, ad uccidere altri uomini. Devi tornare indietro, tornare a ciò che è tuo, alle tue radici. Forse, quando la tua gente se ne sarà andata, allora il sogno cattivo si fermerà. Breve nota di redazione. Abbiamo scelto tra i tanti questo soggetto, anche se all'interno della produzione di Ursula Cobler Le Guin non è certo considerato il migliore né il più originale dal punto di vista letterario. Pazienza, l'abbiamo scelto perché ci è parso uno dei pochi racconti di fantascienza politicamente non ambigui, forse il più tozzo. Perché la contrapposizione tra rivoluzionari e imperialisti sfruttatori è tra le più nette. perché il riferimento allo sterminio degli indiani d'America e ancor più quello alla guerra del Vietnam sono tra i più evidenti ed espliciti. Così è la tematica antiimperialista e la precisa scelta di campo della scrittrice, che non hanno lasciato dubbi di sorta, soprattutto se ricordiamo che la Le Guin firmava la prima edizione di questo racconto molto tempo prima che la sconfitta americana apparisse evidente a chiunque. Un buon augurio dunque. Originale invece sembra il modo in cui è affrontato il problema della violenza rivoluzionaria. La violenza è descritta come un sogno cattivo. La violenza rivoluzionaria come un sogno cattivo ma necessario. Così come lo è la capacità di imparare a padroneggiare la paura, quella con cui l'oppressore perpetua il suo dominio. Spezzare quindi la separazione tra il tempo del sogno e il tempo del mondo. Imparare a guidare il sogno cattivo, la violenza, quella rivoluzionaria, senza rischiare di esserne sopraffatti. Imparare a riconoscere la falsa coscienza morale, quella che può compromettere la definitiva liberazione. Chi conosce il racconto originale si sarà accorto che la figura di Libo, il terrestre buono, come l'amico degli indiani del western classico, è stato ridotto ad una voce fuori campo che invita Selver, nel finale, alla moderazione, a rifuggire dall'uso delle armi, minacciando il timore che il popolo della foresta perda le proprie radici, forse l'innocenza primordiale, quella che legittima la rivolta. La violenza sembra infatti per la Le Guin una sorta di peccato originale, consumato il quale tutto è forse perduto. Libo è dunque la falsa coscienza di Selver, ovvero quella della Le Guin. È però anche un invito ad impegnarsi a padroneggiare questo sogno cattivo, ma necessario, senza farsene sopraffare. Il racconto scandisce così i ritmi della liberazione alla ricerca di una morale rivoluzionaria e cosciente. Cosciente dei limiti e dei pericoli di perdersi per strada. La lotta trasforma i rivoluzionari. Essi imparano a raccogliere la morte che essi temevano e liberarla sul nemico. Ma sono a loro volta, secondo la Le Guin, cambiati e travolti dall'uso della violenza. Selver è un eroe forse romantico, o forse è un eroe del socialismo reale. È comunque un leader, un capo. È la coscienza del suo popolo. È Lenin e Ho Chi Minh. Ma soprattutto Selver è Che Guevara quando scriveva. Bisogna indurirsi senza mai perdere la propria tenerezza. Selver è tutta una generazione. La generazione dei compagni del Vietnam. Il 68. Selver è un eroe antico, difficile a morire. È parte di noi come un padre compagno, amico e terribile insieme. Selver rivive per noi tutto quello che avreste voluto sapere della rivoluzione e non avete mai avuto il coraggio di chiedere. Con molto affetto e un pizzico di ironia ci siamo divertiti a dargli una voce. Ed è stato un po' come vivere nel tempo del mondo, il tempo del sogno. aveva agito, parlato, viaggiato, fatto piani notte e giorni, sin da quando aveva lasciato Brother e i suoi seguaci venuti da Tades. Era andato da una città all'altra, parlando al popolo della foresta, annunziando loro la cosa nuova, svegliandoli dal sogno e portandoli nel mondo, predisponendo tutto in modo che le cose le avvenissero fatte quella notte, parlando, parlando sempre, ascoltando gli altri parlare, mai in silenzio e mai solo. Sul nemico la morte che si temeva.